Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È la prima di agosto, in un mese in cui saremo presenti tutti i giorni, come sempre, fra le 19 e le 20, dal lunedì al venerdì. Mai una pausa per Eclettica, mai una pausa per Giulio Caperdoni, a volte però, sono onesto, giocando con le repliche. Giulio è radiorockfm.com, www.radiorockfm.com, myspace.com/eclettica. Vi ho dato tutti i modi che avete a disposizione per mettervi in contatto con me o mettervi in contatto fra voi, e quindi io sono pronto a partire. Non è un segreto che in America la criminalità organizzata incamera ogni anno più di 40 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra succosa, specialmente se si considera che la mafia spende molto poco per la cancelleria. Fonti autorevoli informano che l'anno passato Cosa Nostra non ha stanziato più di 6.000 dollari per la carta intestata e anche meno per le graffette metalliche. Inoltre, l'organizzazione dispone di un'unica segretaria e di 3 stanzette per quartier generale, in coabitazione con la scuola da ballo di Fred Persky. L'anno scorso la criminalità organizzata fu direttamente responsabile di più di 100 omicidi ed i mafiosi parteciparono indirettamente a parecchie centinaia d'altri, prestando ai killer i soldi per l'autobus o reggendo loro la giacchetta durante il lavoro. Le altre attività illegali in cui furono coinvolti i membri di Cosa Nostra comprendono il gioco d'azzardo, lo spaccio di droghe, la prostituzione, il taglieggiamento, l'usura e il trasporto di una grande quantità di stoccafisso al di là del confine per scopi immorali. I tentacoli di questo impero corrotto si sono insinuati perfino tra le file governative. Solo pochi mesi fa, 2 capi gangster, sotto inchiesta federale, passarono una notte alla Casa Bianca ed il presidente dovette dormire sul divano. Questo era l'incipit di Uno sguardo sulla malavita organizzata, da Saperla lunga di Woody Allen. Profumo di Eclettica. Attenti, scusi. A qui la nuit? Permette. C'est à moi. Sì? Sì, è chiaro, è... oui, c'est le duc, al signor Duca Conte. Bon. Io non mi permetterei mai di giocare a si figuri se mi permetterei di vincere, sì. Vous pouvez payer l'emprunt, monsieur. Scusi, quanto... quanto sarebbe stato, scusi? 700.000. Ah, bene. Eclettica quest'oggi si è aperta andando a pescare nel passato delle sue playlist, con Profumo di Eclettica, questo spazio settimanale che vuole proprio andare a riprendere i brani che avevano caratterizzato la trasmissione sulle frequenze di Rock FM negli anni addietro. Nel caso specifico l'anno era il 1998, l'anno di uscita del EP che ha avuto una storia abbastanza travagliata da parte dei belgi Venus, un EP che contiene oltre a Royal Sucker, il brano che ci siamo ascoltati, anche un'altra grande canzone, pop song, ma d'altronde dovevo scegliere o l'una o l'altra. Storia travagliata, vi dicevo, perché prima è uscito come autoproduzione, poi la BMG belga si è convinta a firmare con loro, però questo rapporto è durato veramente poco, a un certo punto si è interrotto e i Venus hanno trovato una sponda in Italia, grazie all'allora esistente Sonica, e in Italia erano anche molto presenti, incrociando spesso le loro strade con quelle degli Scisma. Poi ci siamo ascoltati Cherries in the Snow da parte degli Elk City, che da qualche settimana a questa parte è presente all'interno della nostra programmazione, per lasciare lo spazio ora invece ad una assoluta novità, anzi un'anticipazione di Heresy and the Hotel Choir, che uscirà solo il 17 di ottobre per Flame Shovel. Sto parlando dei Maritime, band di Milwaukee che ha perso uno dei membri fondatori, Eric Axelson, che era anche un membro dei Dismemberment Plan, e i Maritime hanno lavorato con una nuova formazione, quindi ad una nuova prova discografica che abbiamo qua su Rock FM la possibilità di anticipare con il pezzo che sta per partire, ovvero sia For Science Fiction. Nel 1921 Thomas Covello, detto il macellaio, e Ciro Santucci, detto il sarto, tentarono di riunire svariati gruppi etnici della malavita per assumere così il controllo di Chicago. Il piano andò in fumo quando Albert Corillo, detto il logico positivista, assassinò Kid Lipsky, intrappolandolo in un armadio da cui aspirò fuori tutta l'aria per mezzo di una cannuccia. Il fratello di Lipsky, Mandy, alias Mandy Lewis, alias Mandy Larsen, alias Mandy Alias, ne vendicò l'uccisione rapendo il fratello di Santucci, Gaetano, conosciuto anche come Little Tony oppure come il rabbino Henry Sharpstein, e restituendolo alcune settimane dopo dentro 27 differenti barattoli di conserva. Questo episodio segnò l'inizio di un bagno di sangue. Dominic Mione, detto l'erpetologo, sparò a Lucky Lorenzo, soprannominato il fortunato da quando gli piove una bomba sul cappello senza riuscire ad accopparlo. Per tutta risposta Corillo e i suoi uomini pedinarono Mione fino a Newark, e qui gli trasformarono la testa in uno strumento a fiato. A questo punto la banda Vitale, guidata da Giuseppe Vitale, il cui vero nome era Quincy Baedeker, fece i suoi passi per ottenere il controllo dell'intero traffico di liquori di Harlem da Larry Doyle, detto l'irlandese, un esponente del racket talmente sospettoso da non permettere che nessuno a New York gli si mettesse dietro le spalle, per cui camminava in strada piroettando e girando su se stesso in continuazione. Doyle fu ucciso quando l'impresa di costruzioni Squillante decise di erigere i propri nuovi uffici sul ponte che gli aveva appena costruito il suo dentista personale. Il luogotenente di Doyle, Little Petey Ross, detto Petey il Grosso, prese allora il comando operativo. Egli volle resistere al predominio di Vitale e una sera l'attirò in un garage deserto del centro, col pretesto di invitarlo ad una festa in costume. Senza sospettare di nulla, Vitale entrò nel garage travestito da ratto di chiavica e sull'istante fu trasformato in colabrodo dai proiettili di una mitragliatrice. In segno di lealtà al loro capo defunto, gli uomini di Vitale passarono immediatamente al servizio di Ross. Analogamente fece la promessa sposa di Vitale, Bea Moretti, una vedette della celebre rivista musicale di Broadway Di le tue preghiere, che finì con lo sposare Ross, anche se successivamente gli intentò causa di divorzio accusandolo di non poter intrattenere rapporti sessuali senza prima averla cosparsa con un unguento puzzolente. Questo era l'incipit di Uno sguardo sulla malavita organizzata, da Saperla lunga, di Woody Allen. Thank you. quella somma insanguinata, il Semenzara poté pagarsi il conto della suite al Grand Hotel, gli extra, due puttane e il singolo in vagone letto per il ritorno. Fantozzi, invece, dovette provvedere con mezzi propri. Sarò presente e poi domani, e poi domani ancora giorno, ancora giorno c'è chi dice che ritorno. Non c'è problema, non c'è problema. Mondo felice, c'è chi affretta, c'è chi aspetta, c'è chi seduto, c'è chi seduto e chi deluso, e chi deluso. Ora cammina e trova un senso. Ci proverò serenamente con tutto quello che posso sempre. Io spesso vado a leggere i commenti che voi scrivete su myspace.com/eclettica a proposito di questa trasmissione, e fra quelli comparsi negli ultimi giorni mi ha colpito quello dove si parla di saper far sognare e meditare sulle cose, oppure, ancora più avanti, facendoci volteggiare via dal quotidiano e dalla realtà che scrutano i nostri occhi. Bello che si scrivano queste cose di eclettica, e che eclettica riesca nel suo piccolo comunque a smuovere questi sentimenti, queste corde interne. Eclettica, che l'ha fatto per esempio con la musica degli ultimi due brani, o la musica del brano che sta per arrivare, la musica degli ultimi due brani, ovvero sia quella prima delle islandesi Amina e quella poi dei torinesi Vittorio Cane, con un aiuto da parte di Mao per Ci proverò, o come quella che sta per arrivare da parte di Kevin Drew, che è uno dei due fondatori dei Broken Social Scene, che per la stessa etichetta della band, ovvero sia la Arts and Crafts, uscirà il 18 di settembre con il suo primo album solista, Spirit If. Da questo album ci ascoltiamo una traccia che ha per titolo solo delle iniziali TBTF, che ascoltando il testo dovrebbero corrispondere, ma mi prendo tutto il rischio della situazione, Too Beautiful to Fuck.